Vai Milan, combatti così, altro che zanzara. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, per una nuova puntata di Uno Nessuno 100.000, una nuova settimana insieme a voi fino alle 11. Allora, ci siete, chiamateci all'800240024 oppure manifestatevi 349-238-6666. Il numero per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp, per i vostri audio, per i vostri 10 secondi di gloria, come il nostro caro ascoltatore in presigla. Allora, oggi saluto Carmelo Lauricella, regia. Ecco, e va bene, insieme a lui c'è Danilo Di Trani che ci... Sì, vabbè, ho capito. E anche a tutta la redazione, allora, da Lorenzo Nespoli, Miria Lucchetti, Elisabetta Fusconi, un grande applauso. Basta, gli applausi per oggi sono finiti, anche perché tra poco arriva Vestagliona Manera e su questo silenzio assoluto dalle 9.30. Allora, cari ascoltatori, ci siamo? Abbiamo tante cose da dire in questa puntata con noi fino alle 11. Vai, Carmelo. Enthusiasm about the future... Allora, devo dire che mi ha colpito. Ieri ho letto Repubblica e ho detto: oh, finalmente si riparte, un bel piano per la scuola. Da settembre la scuola riapre, ci saranno i distanziamenti sociali, un metro, le mascherine obbligatorie dalle primarie fino al liceo. E ho detto: questo è un segnale positivo, si raccoglie finalmente il grido di dolore di milioni di italiani che chiedono a uno Stato che ha avuto tempo 6 mesi, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 6 mesi per riorganizzare una riapertura delle scuole con gli studenti sui banchi. Ho detto: oh, ovviamente l'ottimismo della domenica è subito naufragato il lunedì quando leggo sempre su Repubblica che i sindacati si sono già messi di traverso, le misure sono impraticabili. No, vabbè, insomma, questa è partita così. Ma no, fanno il loro lavoro, per carità, la sicurezza su tutto, la sicurezza soprattutto. Domani ci sarà il tavolo di incontri. Io dico solo una cosa: se lo Stato, se uno Stato qualsiasi, in 6 mesi non riesce a riorganizzare in sicurezza la riapertura delle scuole, non vorrei dire che è uno Stato fallito, sto parlando ovviamente dello Stato del Burcigistan, non dello Stato italiano, in termini assoluti, però io credo che milioni di italiani che si sono comportati nella stragrande maggioranza benissimo in questo periodo, esigono una risposta e da settembre vorrebbero tornare a lavorare senza doversi preoccupare del dove piazzare i figli di 6, 7, 8 anni. Credo che lo chiedano a uno Stato che deve dare una risposta con il tempo di 6 mesi per organizzarsi e per dire: si farà così. Signori, voglio, prima di salutare il mio ospite che già ci ascolta, lanciare 2 audio, perché sono un po' gli audio, prendeteli anche un po' in leggerezza, in sorriso, qua non si processa nessuno, non si vuole, però insomma anche l'assessore alla sanità Lombardo Gallera si iscrive alla lunga lista dei politici fonzi, come li abbiamo chiamati noi, cioè quelli che non sanno mai chiedere scusa, ma non riescono a dire ho sbagliato. Capita, no? La famosa e celebre scenetta di Fonzi che quando doveva dire ho sbagliato diceva e non gli veniva fuori, e perché Gallera ha detto la frase che non è neanche, cioè è diventata una battuta comica che supera Manera per 100. Ecco, la vogliamo sentire, Carmelo, il tema del RT a 0,50, la spiegazione di Gallera? Lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare 2 persone nello stesso momento infette, perché? È a 0,50, no? E questo vuol dire che non è così semplice trovare 2 persone infette nello stesso momento per infettare. Ne basta una. No, ne basta una, assessore Gallera. Cioè, se no, è una statistica. Se no, vorrebbe dire che siccome è RT a 0,50, io infetto mezza persona, statisticamente parlando, non so, incontro da infetto Carmelo Lauricella, Carmelo deve decidere se lo infetto dalla testa alla vita o dalla vita in giù. Non è esattamente così. Vabbè, cioè... Ecco, però Gallera dice, ha semplificato, cioè non ha sbagliato, capita, ha sbagliato. Anche se forse vince Albano, eh? Albano da Maraveniera, Albano, sentite qui. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo. Non è un microbo, non è un verme, si è piccolo, non abbiamo distrutto i dinosauri, non lo so, che dobbiamo fare Albano? Ci fermiamo qui, lo dico per rispetto, essendo un grande pugliese Albano, per il sindaco di Bari, Antonio De Caro, presidente dell'ANCI. Buongiorno sindaco, buongiorno, grazie buongiorno di essere qui. Buongiorno, non le chiedo di Albano, perché massimo rispetto per la, come dire, l'identità regionale. Delle voci, diciamo, sì, più importanti al mondo, credo. Quando canta. Senta, sindaco, le chiedo questo. Voi avete voluto fortemente i cosiddetti difensori civici, antenne civiche, sa che vabbè, alcuni giornali, devo dire quelli orientati più a destra, antigovernativi, li hanno chiamati spioni, poi robe del genere, insomma, spioni. Io è la cosa più gentile che ho letto. Il, sì, nome, il nome vero che hanno, sono volontari e si sommano ai volontari che già abbiamo, sono gli straordinari volontari delle protezioni civili delle regioni che in questi mesi hanno permesso alle nostre comunità di stare in piedi attraverso la loro attività di volontariato. Pensi, nella mia città ce n'erano 700 che hanno aiutato tutte le famiglie che erano in difficoltà, portando la spesa, sì, a casa, andando dal medico a prendere la ricetta, soprattutto quelle famiglie che erano in quarantena. E oggi ci stanno aiutando perché nel mercato che ho riaperto da lunedì scorso, il mercato settimanale, dove c'è bisogno di contingentare il numero delle persone che entrano per evitare che ci siano assembramenti, cioè dobbiamo avere un numero massimo di persone, attraverso un'applicazione i volontari davanti agli ingressi contano il numero delle persone che entrano e il numero delle persone che escono, solo che quel numero di volontari ovviamente si è ridotto. Perché? Perché dal 4 maggio si sono riaperte le attività economiche nelle nostre città e quei volontari per fortuna hanno un lavoro, quindi le ore a disposizione si sono ridotte. Abbiamo concordato con il governo di fare un bando per utilizzare altre persone, in particolare i percettori del reddito di cittadinanza che magari come dire, in maniera dignitosa chiedono... restituiscono alla comunità una parte di quello che la comunità dà a loro. È un modo per dare dignità. No, ovviamente sono volontari, non so, conteranno le persone che entrano in un luogo chiuso, daranno le mascherine, daranno delle informazioni. Lei... da, sì, oggi informazioni. Ripartono le spiagge. DPCM e ordinanze delle regioni prevedono distanze di 1,50 m tra i lettini, 10 metri quadri per ogni ombrellone, e c'è l'attività di monitoraggio. Chi la fa l'attività di monitoraggio? Chi dà le informazioni? Non, sì, abbiamo personale a disposizione o agenti di polizia locale che possano fare questo, dare informazioni. Sono poche le risorse a disposizione dei comuni. Nei parchi, quando riaprono i parchi, va fatta l'attività di monitoraggio davanti ai parchi giochi. Chi la fa? Non è che possiamo utilizzare la polizia locale per fare tutte queste cose. Quindi ci sono, sì, già dei volontari che ci stanno aiutando, ci aiuteranno questi altri volontari. Ce ne saranno di più. Lei non teme non sono ronde, diciamo qualche... non sono sceriffi. No, è chiaro, non sono ronde sceriffi. Non teme qualche situazione di tensione, appunto, il volontario che fa sottolinea, non so, a due persone, mettete la mascherina, si sa come va in Italia, tu chi cavolo sei? Possono dire metti la mascherina, possono dire che è opportuno mettere la mascherina, tra l'altro non è nemmeno obbligatorio, devono dire cosa, guardate, state entrando in spiaggia, mantenetevi a un metro, posizionate le sdraio a 1,50 m e l'ombrellone deve avere un'occupazione di 10 metri cioè, quadri. Non andranno poi lì a dire guardate che siete vicini, allontanatevi, perché è lì che un conto è preventivamente, se poi dopo vai a fare un po' il questurino, mi passi il termine. Ecco, non lo possono fare i volontari, quella è un'attività che possono fare le forze dell'ordine. Quindi carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale. Senta, la movida è il grande tema, cioè io non la capisco questa criminalizzazione, cioè oggi ho letto il ministro Boccia dire, usare questa espressione sulla stampa, giuro, finora abbiamo usato la carota. Ma potremmo, da buoni padri di famiglia, io questa espressione, cioè di vedere lo Stato come il padre di famiglia che tratta i bambini con la carota o il bastone, non lo capisco molto. Se hanno aperto i locali con delle misure, è ovvio che uno vada nei locali, deve rispettare queste misure. Cioè non vede una criminalizzazione verso chi sta facendo qualcosa che di principio non è vietato? È assolutamente così. Dobbiamo dirci le cose come stanno. Se diciamo a tutti che si può uscire e apriamo tutti i locali, è normale che tutte le persone che possono uscire cercheranno di andare e di recuperare gli spazi pubblici, che erano gli spazi pubblici più importanti, e quindi quelli della movida. Se da oggi si riaprono le spiagge e tutti possono uscire, e nella mia città ci sono 30 gradi, è normale che tutti cercheranno di andare vicino alle spiagge, non solo i cittadini della mia città, ma tutti i cittadini anche dei comuni dell'entroterra, che ovviamente con 30 gradi avranno la necessità di trovare un po' di refrigerio vicino al mare nel pomeriggio o la sera. Questo accade, e quindi non ci dobbiamo scandalizzare. O ci affidiamo al senso di responsabilità dei cittadini, dicendo stiamo a un metro di distanza, utilizziamo la mascherina, che però non è stata resa obbligatoria all'esterno dal DPCM, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sì. Solo in due regioni, ci sono due ordinanze di due presidenti di regione che obbligano all'utilizzo della mascherina all'esterno. Noi possiamo fare oggi solo appello al senso di responsabilità, spiegando che non abbiamo sconfitto il virus, siamo solo usciti dall'emergenza sanitaria. Però si possono anche dare multe se uno sbaglia. Eh sì, ecco, questo le multe, sì. Ieri nella mia città sono state fatte 18 multe. E come fai però a stabilire qual è l'assembramento? C'è scritto da qualche parte 3 persone, 4 persone, 5 persone, 100 persone. Quant'è l'assembramento? La distanza deve essere da un metro. Riusciamo a controllare tutti la distanza? Andiamo col metro? Non è facile. Noi sindaci non... vorremmo anche dire basta al fatto che siamo diventati gli esecutori di regole che vengono decise in una parte del paese che sembra anche lontana dalla vita reale del paese. Non vogliamo fare i persuasori del rispetto di queste regole e basta, vorremmo cominciare a riprenderci il nostro ruolo, quello di guida della comunità, e molti sindaci oggi si stanno organizzando, alcuni riaprono alcune strade, alcuni le chiudono, altri cambiano gli orari, perché ha sentito De Magistris, ha detto voglio De Magistris ha detto voglio Napoli aperta 24 ore su 24, non chiusa alle 11, che tenerla aperta 24 ore su 24 probabilmente si concentrano in determinati orari, si spalmano durante. Io ho un dispositivo sul lungomare, che è la zona dove si verificano maggiori assembramenti, che nel momento in cui il numero delle persone supera il numero massimo previsto, orientativo, non riusciamo a contare sul marciapiede, quando vediamo assembramenti, perché se uno può uscire e sul marciapiede del lungomare vanno a camminare, a passeggiare le persone, diventano tante, chiudo direttamente la parte carrabile del lungomare e quindi quadruplico quello spazio che metto a disposizione dei pedoni, che possono mantenere quello che abbiamo chiamato in questi mesi distanziamento sociale. Ogni sindaco troverà una soluzione più adeguata alle condizioni della propria città. Vabbè, è la vittoria dei sindaci, lei da presidente dei sindaci dovrebbe essere anche contento. No? È la vittoria dei sindaci, è che i sindaci hanno senso pratico e vivono la vita reale, e indipendentemente da quello che c'è scritto poi nei decreti e nelle ordinanze, dobbiamo cercare di applicare il buon senso e... Ma è chiaro. Allora, sindaco De Caro, nel ringraziarle le faccio un'ultima domanda più politica, perché sa, il sindaco Sala a Milano ha anche detto con uno sguardo nazionale ci vorrebbe una nuova compagine di governo per affrontare. Lei da sindaco, da uomo del Partito Democratico, quindi che appoggia questo governo, auspicherebbe una sorta di rimpasto, un cambiamento in qualche casella? E se sì, quale ovviamente le chiedo. Io oltre a fare il sindaco faccio il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, e quindi rappresento tutti i sindaci indipendentemente dalla loro provenienza geografica, dalla dimensione del comune che amministrano e dalla loro provenienza politica. Io credo che in questo momento, ma l'ho detto anche qualche anno fa quando c'era un altro governo e avevamo problemi dal punto di vista economico. Credo che sia importante avere comunque un governo. Questo è il momento in cui c'è bisogno di un governo, sì, perché però, abbiamo bisogno di risorse. Le chiedo se le sta bene. Poi, questo, cioè questo, qualcuno chiede un rimpasto, ecco, questo non un altro governo ma un rimpasto. Io personalmente riesco ad avere una buona interlocuzione con alcuni ministri e una interlocuzione invece non proficua con altri ministri. Stiamo ponendo il tema dei comuni che lavorano come le aziende, hanno delle entrate e hanno delle uscite. Le nostre uscite però servono a pagare trasporto pubblico, raccolta dei rifiuti e pubblica illuminazione. Le entrate sono la capacità fiscale, non potendo ottenere tasse e imposte per alcune categorie dei nostri cittadini o delle attività economiche delle nostre città, tra poco andremo in crisi. Abbiamo scritto al presidente Conte che tra poco lasceremo le chiavi dei nostri autobus, dei mezzi, posso, della raccolta dei rifiuti, o spegneremo la luce la sera. Con chi non vada, con chi non riesce ad avere un'interlocuzione, glielo posso chiedere, cioè con chi, a chi bussate senza risposta? Non sarebbe corretto dal punto di vista istituzionale, ma in un momento di difficoltà del paese. Lo dirà Conte. Lo sa, va bene. La ringrazio, presidente Antonio De Caro, presidente dell'ANCI, i comuni italiani, e sindaco di Bari. Allora, alle 9:22 minuti, estate, a proposito di estate, si dirà, e ho letto da varie parti, io ieri ho fatto una passeggiata in montagna, in Valsassina, ho sentito il mio amico e scrittore preferito Mauro Corona dire sarà la rivincita della montagna quest'estate, perché la montagna è contemplazione, è lentezza, è sguardo così contemplativo sulla natura e sul mondo. Allora io ho convocato, e lo ringrazio e lo saluto, il presidente nazionale del Club Alpino Italiano, il celebre e storico CAI, Vincenzo Torti. Buongiorno presidente, eccoci qui. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora, lei tra l'altro ha lanciato l'idea del rifugio diffuso, che adesso ci spiegherà, però vorrei capire, ecco, andare per montagne, certo c'è un distanziamento sociale in montagna, è naturale questo, però si rischia quest'estate un sovraffollamento. Siete pronti, è pronta la montagna a ricevere un'ondata di turisti? Io lo spero. Non ne sono completamente sicuro. Quello che la montagna ha bisogno, ma sempre, non solo in questo particolare momento, è una frequentazione attenta, rispettosa e prudente. I numeri non giocano mai a favore di queste condizioni, ma io sono sicuro che il lungo periodo di difficoltà che abbiamo vissuto chiusi, e come io sentivo prima ricordare la passeggiata di ieri in Valsassina, in modo quasi catartico, liberatorio, come a dire finalmente, una dimensione ritrovata. Ecco, se quest'anno la frequentazione parte con questo spirito, come diceva Mauro Corona, per trovare tutto ciò di cui si è detto prima, allora può essere veramente non tanto una rivincita, perché qui non ci sono confronti di questo genere, ma sicuramente una scoperta più diffusa della dimensione della montagna, con tutto quello che offre. Esatto. Però come si va nei rifugi, per esempio? Esatto, come si va nei rifugi e come si potrà mantenere la sicurezza nei rifugi? Indubbiamente occorrerà molta attenzione e molta prudenza. È chiaro che è impensabile immaginare di arrivare ad un rifugio senza aver prenotato, perché è vero che il rifugio deve poter dare accesso in caso di emergenza e necessità, ma l'importante è non porsi in quella condizione, cioè bisogna avere personale consapevolezza che se si arriva lì poi si deve essere in grado di tornare al punto di partenza se non si è prenotato e non ci sono posti disponibili. I posti saranno ridotti, perché per garantire i distanziamenti e tutte le condizioni igieniche è inevitabile che dove prima si entrava in 50, oggi si entrerà probabilmente la metà. Il rifugio diffuso è una proposta che nel momento in cui sembrava davvero che in alcuni rifugi la presenza della collocazione in grandi camerate, che prima era un'occasione, se vogliamo, di particolare convivialità, a parte il fermo alle 10 di sera, silenzio per tutti perché si parte presto, mentre oggi può diventare una situazione perplessa da due punti di vista. primo perché anche la gente potrebbe in questo momento essere diffidente e non aver piacere di ritrovarsi a poca distanza in camerata a dormire con altri. È qui che è nata l'idea di appoggiare ai rifugi, anche per creare un pizzico di avventura, l'idea di portarsi la propria tenda da due da valle, arrivare su, ovviamente se il gestore avrà ottenuto dal comune la possibilità di ampliare in un prato antistante la propria capienza proprio per effetto dei limiti da coronavirus, ecco, poteva essere l'idea ovviamente di avere i servizi di ristorazione, una splendida colazione al risveglio del nostro rifugista e dormire in alta quota, che è anche un'esperienza da consigliare. Sì. Aiuterà, presidente Torti, la tecnologia, spero, la tecnologia che è sempre più, certo, in alcune zone di montagna alta quota, fortunatamente qualcuno potrà dire, non prende il cellulare, però ci vorrà anche una tecnologia in aiuto per cercare di, so che voi puntate per esempio a dire facciamo conoscere dei percorsi un po' alternativi, percorsi diversi, percorsi nuovi, le montagne sono tante e sono le montagne grandi. Esattamente, le montagne sono tante e ce ne sono tantissime da scoprire proprio dietro casa. È stato forse l'invito che abbiamo manifestato in modo più marcato. Abbiamo delle limitazioni territoriali, soprattutto penso a noi che stiamo in Lombardia. Ecco, questa limitazione ai trasferimenti è l'occasione per scoprire l'esotismo di prossimità, un'espressione turistica. Abbiamo tantissime occasioni che sono anche culturali, oltretutto, perché delle mete vicino a noi portano anche a luoghi molto di grande pregio architettonico, ad esempio. Ecco, il diversificare, il non andare per forza tutti sullo stesso sentiero. Questa è una cosa che non solo ci permette il distanziamento, ma anche la scoperta. Io credo che un pizzico d'avventura in questo momento, ovviamente rivolgendosi alle persone competenti. Oggi abbiamo gli strumenti per consultare prima. Chiunque imposta una valle scopre tutta la sentieristica, questo lo fa a casa, poi quando esce sul sentiero si tiene sul sentiero, perché finché sta su quello ci sono tutte le garanzie del caso, e poi va alla scoperta di quella dimensione che Mauro Corona, come veniva ricordato prima, assicura essere particolarmente appagante. Eh sì. Presidente, io la ringrazio, vedremo, e ovviamente buona montagna, Vincenzo Torti, presidente nazionale del Club Alpino Italiano. Grazie. Il CAI, arriva una domanda. Quanto vengono pagati i volontari? No, a parte che il presidente De Caro l'ha detto, ma poi c'è scritto ovunque, no, non vengono pagati, essendo volontari, come sta nella definizione, è un'azione di volontariato. Di questi 60.000 per ora il bando chiede volontari, assistenti civici, antenne civiche, chiamate come le volete. Ecco, c'è da dire che i giornali che oggi dicono sono spioni, sono, no, abbiamo capito che sono le persone che già peraltro si trovano. Io quando vado al mercato comunale vicino a casa, che è al chiuso, c'è all'ingresso una persona che dice: lei dove va? Frutta, lei pane, aspetti, entri, tenga i guanti, si lavi le mani. Cioè fanno queste azioni di informazione, non è che poi vengono a controllare o a dare multe a chi viola le regole. Questo, come ci ha detto De Caro, spetta alle forze dell'ordine e non ad altri. Non sono i volontari dunque che devono poi far rispettare le regole, ma sono a distribuire mascherine, a dire mi raccomando state a un metro all'ingresso per esempio delle spiagge. Beh, non la vedo così da attaccare su tutto, ecco, questa è la mia opinione. Dopodiché non verranno ovviamente pagati essendo volontari, come ci scrive un ascoltatore chiede. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi andremo con Vistagliona Manera. Voglio capire anche come è passato il weekend, cari ascoltatori, so che molti ci hanno scritto di questi 340-320 non ricordo euro che ha speso venerdì in diretta per il ripristino della caldaia. Spero che questo sia stato tutto ammortizzato da un weekend di allegria, di gioia, di spensieratezza, ma lo scopriremo tra un attimo. 1, nessuno, 100 Milan. Sta a sentire, lo so bene quello che ti ho detto di fare, ma quando te l'ho detto mi sono... Come? Ralph, io mi sono... Avevo le idee un po' confuse. Ma che vuol dire un po' confuse? Fonzi a Ralph Malf, caro Leonardo Manera, non sa dire mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. Buongiorno Leonardo. Buongiorno. Oggi... Cosa che io invece cosa qua. Che io so dire benissimo. Io non ho problemi a dire ho sbagliato. Anzi, quasi tutte le cose che ho fatto nella vita erano state sbagliate. Adesso. Quasi adesso. Tutto. Tu ho sbagliato anche venerdì tutto. Cambiare la pompa della caldaia. No, quella è stata una scelta. Tu vorrei sapere come ho passato il fine settimana. Appunto, ti sei a ripreso. A fare docce calde. A fare docce calde per sfruttare l'investimento sulla pompa della caldaia. Ne ho fatte 7, 8, uno dopo la mi asciugavo e ricominciavo a fare la doccia calda, così mi sembra potevo giusto, ammortizzare mi in qualche modo. No, ma Leonardo, guarda che tra poco arriviamo alla questione Gallera, ci torniamo, però siccome so che è preso d'assalto dalle interviste, lo ringraziamo perché si ritaglia qualche minuto per noi il sindaco di una località meravigliosa, peraltro, Lerici, La Spezia. Leonardo Paoletti, buongiorno sindaco, ce la facciamo? Ci sente? No, niente. Pronto sindaco? È già preso in altre interviste. Niente. Sta facendo un'intervista dietro l'altra, perché sai Leonardo, il buon sindaco ha scelto di fare questa iniziativa di mettere gli scogli o comunque il posto per prendere il sole a tempo. Cioè tu vuoi prenotare, che ne so, dalle 10, tu sei un mattiniero al mare? Vuoi prenotare dalle 8 ma allora, del mattino? Prima no. Da quando ho avuto mio figlio, per forza di cose sì, però adesso non più perché mio figlio adesso si alza tardi, però no, non sono un anche mattiniero, non vado presto. Imputi una colpa a Beniamino, porca miseria. Quindi tu quando vorresti prenotare? Quando vorresti, così, nel tuo mondo ideale? Ma a me andrebbe bene dalle... No, 10:30, 11:30, dai. Quell'ora. 10:30, 11:30, vediamo. Io per esempio che sono bianco di carnagione posso anche evitare, che ne so, dall'una alle 2:30, 3, ecco, posso cedere il posto a Lerici a un altro. Ma il sindaco c'è con noi, sindaco Paoletti, buongiorno. Niente. Non c'è. Niente. Avete no, aspetta, millantato dobbiamo una presenza che non no, c'è. Perché, abbiamo millantato no, una perché, un millantatore. Sì, esatto. Intanto ecco, sindaco, buongiorno. Buongiorno sindaco Paoletti. Buongiorno, la ringrazio. So che è preso d'assalto per una serie di interviste. Ma d'altronde lei si è inventato sta cosa. Io mi sono inventato sta cosa che poi sono diventate anche le linee guida di ANCI. Cioè, ANCI... nelle linee guida che ha proposto, non so se ha preso le mie, ma ha preso quelle di tutti noi sindaci della Liguria che abbiamo. Avevo prima ospite De Caro fino a poco fa, quindi certo, potevo chiederlo a saperlo. Abbiamo indicato, ci hanno chiesto di indicare le soluzioni, alla fine le soluzioni sono queste: delimitare le aree, creare un unico ingresso, mettere uno steward e fare un'app per la prenotazione. L'app serve la prenotazione, perché se io non prenoto, no, immagini una famiglia che parte da una località qua della Lunigiana, da Fidizzano, 20 km da Lerici, parte, arriva qua e la spiaggia è già piena per il distanziamento che ci impone Conte, non è che siamo noi sindaci sceriffi che immaginiamo di esercitare il nostro potere mettendo la gente distante ad un metro. Ma quindi come funziona? Cioè uno può prenotare, che ne so, dalle 10 alle 12, c'è un limite orario, ce lo spieghi? Due turni, 4 ore la mattina e 4 ore al pomeriggio. Qui si lavora per tenere le spiagge aperte, non chiedetemi di avere gli stessi numeri degli scorsi anni, se no chiedete a Conte di togliere le norme sul contingentamento. Sì, chiaro. Questo chiaro, è fondamentale. Ecco. Cioè, quindi gli orari come sono? Cosa sono? 9, 13? Dalle 9, 9 e mezza la mattina fino alle 13, alle insomma 4 ore, poi un turno pomeridiano per fare a rotazione e fare sì che tutti possano godere di qualche ora di mare. La cosa terribile per noi sindaci è mandare via la gente dal mare. Cioè alle 13, via, finito il turno. Un bambino che rischia di non fare il bagno quest'estate, un bambino che rischia di non andare al mare quest'estate. Cioè, tutto questo è una cosa terribile che sta sulle spalle di noi sindaci e sta passando anche l'idea che siamo noi sindaci quelli che ci arroghiamo di prendere. Eh beh, no, certo, la gente se la prenderà col sindaco, lei, certo, lei sa già che quindi beh, occorrerebbe ma anche per una questione di ordine pubblico che le istituzioni più alte fossero vicine ai sindaci e spiegassero ai cittadini che queste non sono nostre iniziative, non è arroganza istituzionale, ma è l'applicazione delle norme del DPCM di Conte, che ci dicono che dobbiamo far rispettare la distanza di un metro e dobbiamo evitare assembramenti. Quindi quella prenotazione che sembra così ridicola, in realtà è quella che eviterà gli assembramenti dietro le spiagge, eviterà le risse. So che sindaco, ci saranno delle quote per i residenti, oppure non so se uno da 30 anni viene a Lerici, ha una precedenza? Se viene da 30 anni a Lerici sarà così affezionato a noi che non avrà bisogno di andare necessariamente in spiaggia, perché sa quanto è bella Lerici sulle colline, i nostri percorsi di trekking, mountain bike e tutto. Però tenga presente che noi oltre alle spiagge libere abbiamo stabilimenti balneari e libere attrezzate a pagamento che sono già organizzate con gli albergatori per poter garantire la possibilità di andare in spiaggia anche a chi prenota un albergo. Quindi prenotate, venite a Lerici tranquillamente, perché sarà un'estate bellissima e non necessariamente il fatto di andare in una spiaggia libera possa fare che Lerici sia quest'estate il soggiorno non meriti la vacanza assolutamente. Sì. Noi abbiamo secondo lei saranno ben accolti saremo accolti anche noi bene poveri lombardi, si potrà aprire con un po' di sospetto? Io ho tantissimi amici lombardi e tutte persone di livello assoluto, ecco, perché Lerici è la patria delle grandi famiglie italiane che hanno vissuto qua tutte le estati e che sono qua di tutte le vacanze. Queste persone io le sento e sono contenti delle iniziative che prendiamo, perché sanno che sono importanti, perché sa cos'è importante? Che a settembre i bimbi tornino a scuola, è terribile che non possano andare al mare adesso, ma mi pare che si parla tanto di movida, ma guardi che le spiagge saranno l'ultimo ostacolo per vincere il virus oppure per ritrovarci a ripartenza chiusa tra 20 giorni, un mese o tutto il resto. Se non vengono gestite seriamente saranno i nuovi focolai d'Italia, sappiatelo. Questo lo deve sapere prima di tutto la politica più alta, che deve essere vicino ai sindaci e spiegare che i sindaci stanno lavorando bene quando applicano le norme. Ma tanto guardi, in realtà sindaco succederà che prima se la prenderanno con il bagnino, non tanto col sindaco, prima con il bagnino, poi c'è tutta una filiera prima di arrivare al sindaco, non si preoccupi. Che non si fa vedere, basta che in agosto. Che stamattina parlo con lei, che l'ascolto tutte le mattine, per me è una persona che ammiro. Va bene. Allora le mando Leonardo Manera. Allora le mando Leonardo Manera a Lerici. Lui ha detto che prenota. Quando è che vuoi prenotare, Leonardo? Dalle 8? Tu dalle 10. No, lui dalle 10 e mezzo. Alle 11. Il più comodo. Il più comodo. Sindaco, la ringraziamo. Grazie a voi. Lerici, a presto, sindaco Lerici, La Spezia, Leonardo Paoletti. Conosce tutte le famiglie bene della Lombardia, perché non conosce te, se ho Boletti. Io ho lavorato a Lerici, ho fatto lo spettacolo a Lerici tanti anni fa, in un bar. Sì, mi ero anche innamorato della barista, mi piaceva molto la barista. Come si chiama? Facciamo un appello in diretta al bar, come si chiama il bar? Magari c'è ancora la barista. Non ricordo più, perché sono passati veramente forse 30 anni, 25, però questa barista aveva avuto un gesto di attenzione nei miei confronti e la ricordo ancora con gioia. Tipo? Perché volevo una brioche, però non volevo mangiarla subito. E lei mi ha detto, va bene, te la tengo da parte. Ecco, quello per me è stata una manifestazione d'amore. E te l'ha fatta pagare, ovviamente. Beh, quello sì, però è il massimo che posso dire. Ragazzi, mi sa che gli ha fatto male la caldaia, sì, o le tante docce. E vabbè, ragazzi, è così. Comunque, no, ma al di là di tutto, sai che ci sono arrivate mail accorate di gente veramente distrutta da questi 340 euro che hai dovuto pagare in diretta? Sì, ma 320, gente che ti ha sentito davvero, non più che amareggiato, abbattuto proprio. Uno ha scritto questa mail, scusate, ho dovuto interrompere l'ascolto del podcast quando è arrivato il momento in cui Manera ha pagato i 340 euro perché stavo male, ma davvero male per lui. Mi dispiace molto, scusate per questa mail. E ci ha abbandonato così a metà podcast di ascolto perché non soffriva per te, ma soffriva tanto. Allora io vi invierò oggi da mettere sui social della trasmissione una foto della mia caldaia, così si può condividere anche questo momento che ho vissuto. È bella, dai, ancora bella la mia caldaia. Ho un rapporto con lei da 10 anni. Pensa che sto con la mia caldaia da più tempo rispetto a qualsiasi altra relazione sentimentale abbia avuto. Quindi per me è importante, anche è per quello che ci tengo. Basta inserire l'aria nel vaso e poi il vaso dopo di espansione, sì. Sì, così basta una gonfiatina e si sistema tutto. Quindi per me è un rapporto stabile quello con la caldaia. Ecco, quando c'era stato il momento in cui potevo congiungermi con gli affetti stabili, io sono andato davanti alla mia caldaia. E l'hai abbracciata e ti sei ustionato. E lei vabbè, si è rotta dopo. Vabbè. E lei si è rotta. E lei, appunto, lei si è rotta perché... ma questo perché è l'ho un abbracciata, simbolismo... Sì, sì. È un simbolismo importante, è la rottura della caldaia che tu consideri di affetto stabile, mentre lei sì, ti ha lasciato, insomma, temporaneamente. Ma adesso funziona. Salutiamo anche Cristiano, che è un installatore di caldaie e anche aggiustatore idraulico. Cristiano, che è venuto, è un gran battutista, devo dire, quando è venuto a trovarti venerdì a casa. Va bene, sentiamo, ci ha chiamato Pietro, dalla provincia di Modena. Vai Pietro. Pronto? Eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che ci vuol dire? Prego, guardi, prego Pietro. Sì, guardi, io mi riferisco alla riapertura di palestre, scuole di ballo e cose simili. Sì. Per segnalare una grave incongruenza, gravissima dal mio punto di vista. Cioè, nelle scuole di ballo non si può ballare in coppia. Nelle scuole di ballo questa non la sapevo, cioè lei me la dà come una notizia, cioè perché, sì, certo. E non si può ballare in coppia perché lei è appassionato? Io sono appassionato di ballo, sì. Ballo con mia moglie, facciamo ballo liscio, ballo da sala. E certo, e come fa a fare? Tanto lei con sua moglie sta a casa, perché non può fare il ballo? No, cioè, con mia moglie ovviamente in questa quarantena ci siamo arrangiati, ci siamo tenuti in allenamento, però noi prendiamo anche lezioni. Ecco. Se lei vuole ballare con le altre, questo è il fatto. No. È un matrimonio in grande crisi, capisco. Ormai il matrimonio è alla fine. Quello, caro Leonardo, è chiaro che non si può fare per ora. Ma guardi, quello del ballo è una cosa che ha la luce del sole, perché quando certo, in tempi normali si parla con le altre davanti a tutti. Quindi è chiaro. Però lei giustamente segnala questa grande contraddizione. La famosa definizione della politica dei giri di valzer ai tempi della triplice alleanza, che poi diventò intesa con il è interessante pace. Però perché Pietro dice: io a casa sto con mia moglie, perché non posso ballare con mia moglie alla scuola di ballo? Ma lui vuole ballare, l'ha detto anche adesso, con altre davanti a tutti, insomma. Lei può ballare con sua moglie in casa, ma lei può andare in questo momento alla scuola di ballo con sua moglie a ballare in coppia? Faccia uscire una bellissima, se la regia ce l'ha portata di mano, faccio uscire la Castelli che risponda a Manera: questo lo dice lei. E infatti non può, cioè se nella scuola di ballo è vietato il ballo di coppia, non è che c'è la deroga, a meno che tu non sia marito e moglie, no? L'assurdo è questo, perché noi facciamo anche delle lezioni individuali, cioè siamo noi due la maestra.

per cui fare certe cose è socialmente accettabile, anche in forma di assembramento più o meno evidente, e invece farne altre no. Per esempio, ci si può assembrare senza troppi rimbrotti se si va in massa a cogliere le non dichiarazioni di Silvio Romano, mandati magari da quegli stessi direttori che poi criticano pesantemente i giovani che cercano il contatto umano nella cosiddetta movida. Ci si può assembrare, sicuramente in modo meno evidente, per partecipare a una messa, ma al momento non lo si può fare per assistere a uno spettacolo che certamente rappresenta una forma di celebrazione meno elevata, che però per qualcuno ha una certa importanza. Si può andare al mare per entrare subito in acqua e fare il bagno, nuotando atleticamente con vigorose bracciate, mentre è più socialmente disdicevole e criticabile rimanere a prendere il sole, perché pare atteggiamento di pura vanità, finalizzato poi ad atteggiamenti lussuriosi, anzi movidosi. Insomma, nei periodi difficili emerge sempre il nostro caro vecchio moralismo paternalista, condiviso a quasi tutti i mezzi di informazione. Tutti i TG diventano TGS, telegiornale Savonarola, e gli aperitivi, e non gli errori anche politici che sono stati fatti, gli aperitivi e i party diventano i veri responsabili del coronavirus, che a quel party evidentemente anche il coronavirus partecipa volentieri. Chissà, forse anche lui il coronavirus si era stancato del lockdown e aveva voglia di fare un po' di movida. Bravo Leo, io condivido ovviamente con tutte le critiche di tutti i criticoni che dicono aprire un locale non vuol dire fare gli assembramenti. Infatti nessuno di noi è per gli assembramenti, si va nei locali rispettando le regole, ma si va nei locali perché lo Stato ha detto che si può andare nei locali, quindi non ci rompessero i cosiddetti. Non ci rompessere i cosiddetti. Senti qui, ad Ascoli e San Benedetto del Tronto è scesa in campo la polizia scientifica. Gli agenti hanno ripreso con le videocamere quello che accadeva davanti ai locali notturni, che dovevano fare risolvere un delitto, non so, il RIS di Parma. Cioè, io veramente, e infatti il risultato poi è questo, ripeto, ministro Boccia, oggi intervistato da Fabio Martini sulla Stampa, per ora abbiamo usato il metodo della carota, il metodo del buon padre di famiglia, un po' di bastone e un po' di carota, ma se sbagliate richiudiamo tutto, tutto, capito? Voi se sbagliate ad andare a prendere l'aperitivo siete gli untori e i responsabili del crimine e verrete perseguiti e chiuderemo tutto. Guarda che è veramente incredibile che la colpa in tutto questo periodo sia sempre di quello, esatto, che è successo in un modo o nell'altro, venga sempre addebitata ai cittadini. Beh, no, ai cittadini fondamentalmente, sì, sì. Invece sì, sì, sono stati fatti, mi pare evidente, anche errori politici. Ma di quello, insomma, si tende sempre a parlare poco perché bisogna essere tutti uniti in questo periodo, eccetera, eccetera. È colpa di chi prima correva, di chi adesso va a fare la movida, e va bene. Colpi dei cittadini che, ricordo, quando erano chiusi i locali non sono andati nei locali, e adesso che sono aperti i locali per legge vanno nei locali. Sempre questo, lo ribadisco, rispettando le leggi e rispettatele. Chi non le rispetta, ci sono le multe. Tutto qui, le multe. Giornale Radio. Ciao, sono Marco da Roma, I love my radio. Ciao, sono Linda da Follonica, I love my radio. Ciao, sono Michela di Milano, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 35% di persone la ascolta per più tempo. Il 43% la ascolta da supporti digitali. E nella fascia 14-44 anni raggiunge l'88% della popolazione. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Io a settembre propongo di riaprire la scuola a Imbuto. Ragazzi, dobbiamo essere ottimisti. Questo virus a breve, sono sicurissimo, lo sconfiggeremo. Quanto è vero sia stato chiaro Gallera nel suo discorso. E vabbè. Mila continua a sostenere che sei un irresponsabile. Vedremo con la seconda ondata come ti comporterai. Milan, dai, ma fa il bravo. Non è criminalizzato il fatto che la gente vada a fare lo spritz. Non è criminalizzato niente. È che la gente ci va e non rispetta le regole. Ma guarda un po' di filmati, quello che c'è in giro. Il problema è che la gente non rispetta le regole. Dagli le multe. Dai, non metterla sempre come ti fa comodo a te. Quindi vietiamo tutto, capito? Quindi vietiamo tutto. Cioè, non lo so, Leonardo, cioè, capito? Scusa, l'altra sera ho visto un servizio di qualche TG, non ricordo quale, dove praticamente si stigmatizzava questa movida, questi ragazzi che erano lì, no, apparentemente a fare assembramenti, ma a pochi metri di distanza c'era la polizia locale che non interveniva, è preposta a quello. Quindi se ci sono dei comportamenti irregolari può andare lì e darle multe. Io non capisco qual è la cosa vorrebbe l'ascoltatore. Cioè vorrebbe vietare tutto lo stato di polizia per 7 mesi? Cioè cosa violano gli italiani nel momento in cui si dice si riaprono i locali? Prima c'era l'asporto e quindi andavano a prendere, io l'ho fatto, a prendere il mio Moscow Mule e mi sono allontanato dal locale. Adesso ci sono i locali aperti con il divieto di assembramento, quindi distanza di 1 metro. Quando io vado mi mantengo a distanza, a parte con i miei figli ovviamente, visto che ci vivo insieme, quindi sarebbe una stupidata farlo, quindi rispetto le regole. Se uno non le rispetta, venga multato. Punto. Cioè, qual è l'ulteriore discussione? Io non la capisco. Hai visto quelli là che non rispettano le regole? E io mica sono d'accordo con quelli là che non rispettano le regole. Come dice Leonardo, c'è la polizia, vada a fargli una multa, va a multi il gestore, multi chi non rispetta le distanze, punto. Io sono convinto, come dicevo prima, che nella parola movida ci sia un giudizio moralistico. La movida, stai andando a Ibiza, come quando io una volta ho detto che sono andato a Ibiza e mi manca tantissimo andare a Ibiza e tutti gli anni vado a Ibiza, è un'isola meravigliosa, Ibiza, con delle spiagge meravigliose, con un'ospitalità straordinaria, con dei ristorantini all'aperto eccetera, e tu dici vai a Ibiza, ma come mi sei scaduto, perché se vai a Ibiza devi essere un drogato che vai a calarti gli acidi, no? Questa è l'immagine, il prototipo. Poi è vero, diciamo, vabbè, comunque. Ma no, forse sarà vero per te quando vai a Ibiza, che mi dici tutti gli anni vado a Ibiza perché ho bisogno di 3 giorni di sballo e si sa, io non l'ho mai detto pubblicamente, ma scusa, prima di ora. Se il mio massimo sballo è andare al Bar Jimmy, cioè, mi sembra che non ci sia paragone. Marco, dalla provincia di Udine, buongiorno Marco. Ciao, mandi a tutti. Mandi. Manca solo tutti questi decreti che nessuno ha letto perché sono illegittimi, bastavano 2 articoli. Articolo 1, metti la mascherina. Articolo 2, tieni 1 metro di distanza, se non lo fai, basta. Punto. Per cui assembramenti cosa sono, diceva il sindaco. Assembramenti sono meno di 1 metro, assembramento. E poi, scusate, le foto sui navigli, io ho visto, le foto non si fanno a altezza d'uomo, visto che abbiamo tutti questi droni che colpiscono i run, li fai coi droni, perché se vedi dall'alto le distanze c'erano. Non erano assembramenti. Beh, insomma, su questo Marco, no, devo dire, effettivamente molti. Le foto a Brescia, in piazza Arnaldo da Brescia, le ha viste? Adesso sì, è vero che erano schiacciate di venerdì e sabato, ma con tutte quelle persone, pensare che ci fosse sempre il rispetto di 1 metro di distanza mi sembra un po' improbabile, no? Qualcuno avrà violato sicuramente le norme, non crede? E poi il signore che voleva ballare semplicemente. E perché? Cosa devi chiedere allo stato di famiglia? È ovvio che se non sei con quella con cui hai fatto l'isolamento non puoi stare a cheek to cheek, perché scusa, è ovvio. Sì. Per cui, no, ma lui andava con la moglie però, eh? Lui andava con la moglie. No, con la moglie può andare, con la moglie può andare. Ma no, ma alla scuola di ballo no. Sì, ma se mi presento io dico questa è mia moglie, chi è che decide? Devo portare allo stato di famiglia. Quello è il fatto, no? Certo, come sì. Ma capisce che siamo sempre così, perché il retropensiero è che l'italiano vuol fare il furbo e ti frega. In Olanda, se uno dice vieni alla scuola di ballo con tua moglie, e uno si presenta dicendo questa è mia moglie, probabilmente nessuno mette in dubbio che succede, quella sia tua moglie. Sai cosa, no? Succede, nelle sai cosa succede nelle scuole? Succede come quando io lavoravo nei club di scambi di copia. Praticamente molti uomini dicevano che bel paragone. Sì. Ascolta, no, ascoltatore di prima, ti sta paragonando a un frequentatore di scambi di coppia. No. Vai, io prego, ho lavorato nei locali di scambi di coppia e c'erano uomini che dicevano che quella che era con loro era la moglie, in realtà era tutt'altro, ed è la stessa cosa, insomma. Capito, Pietro, che bel paragone? Tu che vai nella scuola di ballo con tua moglie. No, dice, ha detto Leonardo, mi ricorda come ha fatto un paragone, no? Cari ascoltatori, siete tutti testimoni. Ma chi frequenta dalla provincia di la privé sa che funziona così. Molti uomini, mia moglie, in realtà no, erano persone pagate ad hoc. Non so, diciamo. Per esempio, chiediamo a Massimiliano, che forse è un frequente. No, nel senso, no, Massimiliano no. Dalla provincia di Varese, buongiorno. Prego, prego. Sì, ciao Milan. No, non sono un frequentatore di quei posti lì, mi spiace. Vabbè, no, volevo magari sollecitare a spostare un po' l'argomento dagli spritz, dai bar, a cose un po' più economiche. Cioè qua si sta ormai delineando la nuova tassa Covid, attività commerciali tipo parrucchieri, centri estetici, ti mettono sullo scontrino contributo Covid, 4 euro. Proprio così, lo mettono sullo scontrino? Ragazzi, qua ormai è generalizzata, quindi la polizia, la nonaria, andasse a controllare i commercianti cosa fanno, non mi sembra tanto regolare questa cosa. Cioè, oggi Codacons lo scrive sul sito internet, a caratteri cubitali. Forse quello è sì, effettivamente devo dire, io in questi giorni, ma lo faccio così per gli amici che conosco in quartiere, il caffè gli lascio anche 1,50 euro, ma così, perché mi sembra posso permettermelo, e quindi un piccolo gesto, come dire, no? È un po' il caffè sospeso, quello è la tassa Bar Jimmy, come fa Manera. Cioè un contributo volontario, però effettivamente lo scontrino, contributo Covid, tassa Covid, non è male. Leonardo, suggerisci al Bar Jimmy, caffè 5 euro, tassa Covid, contributo Covid, non è male. Ho letto anch'io di questa cosa che è diffusa in molti esercizi, evidentemente è illegale, no? Va bene. Senti un po', devo dire che tra l'altro è arrivata una mail straordinaria dalla Siberia. Alexei ci scrive. Alexei, buongiorno, che è Alessandro Leonardo, cede le mie più sincere condoglianze per la tragicamente deceduta nella lotta iniqua con il famoso vaso di Pandora, stufa del signor Manera. Non è una stufa, è una caldaia, ma è Alexei che è traduttore dal russo all'italiano. Dice, tutti noi abbiamo uno che piangiamo sopra. Va bene, adora, ci segue dalla Siberia. Un giorno ti chiamiamo, Alexei, assolutamente. Purtroppo A che ora lo chiamo? Alexei? Non ci posso credere, l'ha detto. No, non ci posso credere. Alexei, a che ora lo chiamiamo? Alle 6. L'ha detta. Bella, fa ridere parecchio. Vabbè. Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno Stefano. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, dunque, riferendomi a quello che ha detto la professoressa Capua l'altro giorno in Rai, dalla signora Magnieri, se non sbaglio, ecco, io vorrei fare un appello in rappresentanza, diciamo, del Tribunale dei diritti del malato, cittadinanza attiva, di cui sono rappresentante qui nel territorio locale di Palestrina, affinché, diciamo, il ministro Speranza, Sideri, insomma, chi di dovere, attuino immediatamente una politica tesa ad aumentare immediatamente i posti letto e ad individuare delle strutture permanenti per l'emergenza epidemica e pandemica, perché qui da noi, per come stiamo messi a carenze di posti letto e personali, basta una banale influenza, come succede spesso, basta con un po' di casi di influenza stagionale e vengono chiusi negli ospedali i ricoveri programmati, ma lei si rende conto? Cioè, se a questo ci aggiungiamo il Covid, perché la professoressa Capua l'ha detto chiaramente ieri, bisogna parlare pubblicamente di sanità, cioè questa era un'emergenza prevedibile, lo ha detto chiaramente, da almeno 10 anni. Allora, i prossimi mesi che vengano individuate le zone più sofferenti, più a carenza di personale, posti letto, vengano rafforzate, identificando degli ex ospedali chiusi in strutture permanenti per affrontare le eventuali epidemie. Tanto ci dovremo convivere con queste situazioni. Allora facciamo i fatti. Cioè, questo è il nostro... Perché si parla, si va... Cioè, poi i fatti... Sì, come dire, programmiamo. Ma questo che sia, come dire, che tutti noi abbiamo sottovalutato e non abbiamo programmato, questa è ormai abbastanza storia, no Stefano, non crede? Facciamo, nel senso che non aspettiamo di arrivare a ottobre, che col mescolarsi magari di una recrudescenza Covid, di un'influenza, che un'altra volta chiudono gli ospedali come è successo qui, 90.000 persone all'improvviso in pochi giorni si sono trovati senza l'ospedale. Insomma, sarebbe auspicabile che questa lezione almeno faccia imparare qualcosa per il futuro. Speriamo che le altre istituzioni comprendano e ci vengano incontro. Insomma, noi faremo poi un appello istituzionale, pubblico. Va bene, grazie, caro ascoltatore. Andiamo a sentire il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10 e 20 minuti. Sai che, caro Leonardo, abbiamo convocato il nostro amico Carlo Vanoni, che salutiamo, critico d'arte. Buongiorno Carlo, buongiorno. Ben ritrovato. Ciao Alessandro, ciao Leonardo, ciao. Ciao. Allora, succede che a Parigi c'è stata una lotteria, un italiano ha comprato un biglietto che ha poi regalato alla madre e questa madre ha vinto un Picasso. Ora, già, sì, certo, beata lei. Però Carlo, intanto tutti si chiedono come mai ci fosse un Picasso come premio di una lotteria. Credo che un magnate, una persona, sì, un mercante, esatto, ha offerto questo dono a questa lotteria, né? La natura morta del 1921. Se uno vince un Picasso, cosa fa? Cosa fa? Una festa intanto con tutti gli amici, perché è un bel momento. Poi dipende chi lo vince. Sai, i quadri sono una forma di energia pazzesca, no? Come i soldi del resto. Quindi o sei abituato a gestirla quell'energia, o se no puoi anche farti male. Allora, se tu vinci un Picasso e hai nella tua collezione già altre opere di quel livello, non fai che aggiungerlo. Se non hai mai comprato un quadro e ti trovi un Picasso, forse a quel punto di qualche domanda te la devi fare, tipo magari lo vendo, magari lo metto in un cavò, certo. Perché è troppo, capito? È pericoloso. Però vogliamo aspetta a chiederlo al protagonista, perché è con noi Lorenzo Naso. Lorenzo, buongiorno, 25enne, originario di Ventimiglia, ma vive e lavora a Parigi. Buongiorno Lorenzo Naso. Allora, qui Carlo Vanoni è il nostro critico d'arte che ci aiuta in queste cose. Intanto lei ha comprato questo biglietto così, dicendo vabbè, regala a mia madre, sì, il biglietto, succede. È stato un colpo di testa che mi è venuto questo 15 dicembre scorso Ho pensato che poi fosse una bella iniziativa e a mia mamma piacciono molto queste associazioni caritative, è stato perfetto per Natale come regalo. Il problema è che uno alla lotteria pensa di vincere, che ne so, del denaro. Poi dopo... Lei si è pentito di averlo regalato a sua madre, adesso dice lo potevo tenere io questo biglietto. Si è pentito molto. Si è pentito di aver regalato quel biglietto a sua madre, voleva tenerlo per sé. Momento un pochettino e oh mio Dio, l'ho comprato e ho dato quello vincente a lei, però poi mi sono detto se non gliel'avessi regalato, intestato attraverso, diciamo, la procedura di questa fatalizzativa, a mio avviso non avremmo vinto, e quindi credo che, perché se lo meritasse per tutto ciò che ha fatto per me, mi ha fatto studiare e mantenuto fino adesso, e la voglio ripagare. Mi sembra giusto. Allora, ascolti bene Lorenzo Carlo Vanoni, cosa si può fare con un Picasso del 1921? Ovviamente festeggiare. E poi Carlo, che cosa si fa? Si può regalare a Carlo Vanoni o a Leonardo Manera? A Radio 24. Radio 24, poi vedremo un po' come spartircelo. Scherzo. Carlo, no, cosa è, si... sai cosa? È che quello è un quadro che può anche far gola a molta gente, no? Sai, esporlo, e se adesso sanno anche chi ce l'ha e dov'è, potrebbe essere, sì, anche certo, un po' un problema. Dopodiché uno può dire: io lo voglio tenere perché mi fa piacere tenerlo, perché non ho bisogno di monetizzare, e lo metto magari al sicuro in un cavò e poi lo presto. So che mi sembra che il sindaco o qualcuno l'aveva chiesto per una mostra, insomma, l'ho letto qualche cosa. Potrebbe essere anche questa un'ipotesi, ecco. Però voglio dire, si ha a che fare con un gigante della storia dell'arte, con un'opera che è stata valutata anche abbastanza, mi sembra, no? Ma è vero questa stesso cifra, un milione? Questa cifra di ma un sì, milione? Il gallerista che l'ha dato dice che vale anche tre volte, poi stai lì e già vedere, di fatto... Insomma, è un'opera che vale tanto, ecco. E quindi dipende, è molto soggettiva, ripeto, se sei abituato... Cioè io non ci vedrei nulla di male, per esempio, se, adesso non so, non vogliamo entrare nella vostra casa, Lorenzo, ma se uno volesse anche capitalizzare, non ci vedrei niente di ma male. Ma sicuramente anche è quello che pensano, Picasso cosa, è quello che pensano di fare già, sicuramente, non volete tenerlo, immagino. Lo volete vendere Lorenzo, il più presto possibile. Avete parlato... Ma guarda, questo è inconfutabile. No, non abbiamo sentito bene, Lorenzo, aspetta un attimo, perché il cellulare è un po'... Prova a ripetere, scusa. Sì, Lorenzo. No, senza dubbio non sarà appeso in salotto, ecco. Non è, diciamo, la nostra idea principale. Poi, per quanto riguarda una vendita, al momento siamo una piccola famiglia borghese, non abbiamo né... ristrettezze nei grandi desideri, non abbiamo nemmeno esigenze immediate economiche, per cui probabilmente la cosa che più mi disagiava mia madre era quella di lasciarlo, che tutti potessero vederlo, quindi che fosse esposto in un museo o in una galleria. Quello era, diciamo, ciò che sentiva più. Bello. Bello, solo che cambierà titolo, invece di Natura Morta, come? Quello che è si chiamerà Colpo di Culo, il titolo, dico, potete cambiarlo. Vabbè, Carlo Vanoni, vuoi dire tu qualcosa a questo indisciplinato di Leonardo Manera che vuol mettere il sottotitolo Colpo di Culo? Il fondatore Picasso sarà felicissima di questo. No, io direi questo. Allora, è molto nobile quello che dice lui, il ragazzo, cioè, possiamo anche magari prestarlo, donarlo, sarebbe molto bello darlo per un periodo, anche una pinacoteca, no? Ci sta, sai quante persone danno la loro collezione magari per un periodo più o meno lungo. Ma io personalmente, da piccolissimo collezionista, ce lo venderei a comprarmi altre opere di artisti contemporanei, no? per motivare anche gli artisti di oggi. Ma sai, ognuno poi è libero di fare, come ognuno dico, quando fa. Vinci la lotteria, no? Che cosa fai? Soldi, esatto, in questo caso è proprio vero, insomma. Però io il verbo donarlo non l'ho percepito nel discorso di... no, forse no, prestarlo ancora donarlo, donarlo effettivamente non l'abbiamo sentito, è una mia licenza poetica questa. No, comunque ringraziamo Lorenzo Naso, devo dire, e lo ringraziamo anche perché c'è stato effettivamente, come hai detto tu Carlo, una serie di interviste, anche tutto un interesse che è forse anche un po' esagerato, ci mettiamo anche noi, insomma non è bello essere esposti, non è facile esporsi a dire ho vinto un Picasso e adesso lo sa mezzo mondo, no? Giustamente sì, non finirà in salotto, non finirà in salotto. Carlo, Carlo. Sì. Carlo, fai il tuo lavoro, spiega perché Picasso esatto, è importante, al di là dell'aspetto economico. Spiegaci qualcosa di Picasso. No, un po' anche tu, maledetto Carlo, spiegaci qualcosa. Ebbene sì. Allora, tu vuoi sapere perché Picasso è Picasso, perché è importante, no? E certo, è molto difficile perché è uno dei pittori più complessi, però... volendo usare anche adesso, insomma, il poco tempo che immagino abbia a disposizione, posso dirti questo, che Picasso chiude una tradizione, nello specifico la tradizione della pittura occidentale italiana, che parte con Giotto e chiude proprio con Picasso. Mi spiego. Prendiamo come esempio un'opera che conosciamo tutti, cioè il Cenacolo di Leonardo. No, questo ce l'abbiamo davanti, credo, no? Tutti quanti. quello è il massimo esempio di quello che chiamiamo rinascimento, umanesimo, cioè questo portare l'uomo dentro come soggetto principale del mondo. No, questa centralità dell'individuo in pittura si chiama prospettiva. La prospettiva è l'artificio che gli artisti usano per creare la terza dimensione e fare in modo che colui che guarda, no, e anche colui che dipinge ovviamente, sia calato dentro l'opera. È una sorta di piramide rovesciata. Bene, questa centralità dell'individuo presuppone un punto di vista unico, che è quello frontale. E questa storia, in maniera diversa, passa attraverso tutta la storia dell'arte, fino a Picasso, il quale ribalta questo concetto e riporta la pittura nella sua bidimensionalità. Cioè, è come se Picasso ci dicesse: inutile creare una terza dimensione, perché la superficie di un dipinto è bidimensionale. E quindi introduce la quarta dimensione, che è il tempo. Come fai a dipingere il tempo in pittura? Ecco, lui immagina di girare intorno al soggetto che ha davanti e di dipingerlo da più punti di vista. Quindi non solo quello frontale, ma anche quello laterale, o quello da sopra, da sotto, di lato. Tantissimi punti di vista, e tutto quello che lui vede lo dipinge sulla superficie così com'è, bidimensionale. Quindi appiattendo tutto. Quindi l'inizio della storia occidentale è Giotto, poi il massimo compimento del Rinascimento con questa idea di prospettiva, di scatola prospettica, e finisce con Picasso che riporta la pittura nella sua veste bidimensionale. Ecco, così volendo posso essere molto sintetico. E questa natura morta del 21 è il liquidatore. Sì, esatto, è il liquidatore della pittura occidentale. Vedi, per una volta che uno chiude diventa famoso. Per cui... diventa famoso. Questa natura morta, che cosa si può dire? Ma questa natura morta dove non si vede questo... Non è così evidente questo concetto, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, non è il capolavoro di Picasso, no? Cioè, è un'opera di un periodo anche buono, gli anni 20. Tieni presente che la rivoluzione di Picasso, di cui ho parlato prima, che prende il nome di cubismo, si colloca dal 1907 in poi, e nei successivi 5-6 anni, no? Le fasi del cubismo sono sostanzialmente tre: quello formativo, analitico e sintetico. Ecco, questo del 21 è già un periodo successivo, dove Picasso si è già affermato, ma lì non è tanto evidente questo concetto. Diciamo, è un'opera, adesso non voglio dire minore, non voglio sminuire assolutamente, non è da quell'opera che noi capiamo la rivoluzione di Picasso, mi spiego. Certo, certo. Eppure essendo minore è valutata a 1 milione di euro, cioè, esatto, giusto per capire. Tieni presente che l'opera più pagata di Picasso è stata venduta 5 anni fa a New York, si chiamava Le donne d'Algeri, ed è stata venduta a 179 milioni di euro. Ecco. Sì, quindi noi dobbiamo fare il prezzo della Gioconda, che l'altra volta è il prezzo di Guernica a sto punto, perché esatto, è prezzo, ecco, Guernica, questa cosa della bidimensionalità in Guernica, poi del 37 già dopo, no? Però è evidente proprio in Guernica, poi lì c'è anche il bianco e nero, però lì proprio è evidente questa bidimensionalità. Tieni presente che Picasso ha sintetizzato tutto quello che io spiegato in pochissimo tempo con una frase, è stato lapidario. Ha detto: io da bambino, a 7 anni, dipingevo come Raffaello, poi ci ho impiegato tutta la vita per dipingere come un bambino. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che quando noi vediamo un segno di Picasso, quelle cose strane, oppure, cioè, non è che lui l'ha fatto come lo fa un bambino, cioè inconsapevolmente, lui l'ha fatto stando dentro una tradizione, cioè dato questo e questo, io faccio questo. Ecco cosa vuol dire, certo. No? Impiegare una vita per avere quella naturalezza, vuol dire conoscere tutta la storia dell'arte e poi dire: posso anche fare un segno semplice, ma quella semplicità è figlia di una storia molto, molto complessa e molto lunga. Sì. Grazie Carlo Vanoni che ci hai, grazie e complimenti a Lorenzo Naso, insomma, anche se hanno vinto senza, sono stati fortunati, come ha detto Leonardo Manera. Devo andare a sentire la borsa, poi riprenderò da Gianfranco, se ha un attimo di pazienza, da Roma, e tanti altri ascoltatori, state qui. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, ma non la vede un po' come una sconfitta il fatto che lei va in onda tutti i giorni da anni a tentare di insegnare qualcosa alla gente e la gente non ha ancora capito niente e continua a telefonarvi dicendo che sono dei fascisti, quelli che vanno in giro coi manganelli per vedere se c'è le mascherine. Madonna mia. Pink, it's my new obsession. Ma Manera, tu spendevi meno a comprare la nuova, dai. Ma la fattura te l'ha fatta? Mamma nera, era lo scolapasti, l'oggetto a cui eri più legato. 30 anni, mi hai deluso, adesso solo 10 anni con la caldaia. I 30 dello scolapasta sono un'altra cosa. Effettivamente, sì. Sì, ma infatti lo scolapasta non l'ho buttato, l'ho conservato e l'ho attaccato fuori dal balcone, sul balcone, come tu puoi testimoniare. È vero. Devo dire all'ascoltatore di prima che è lungi da me volere insegnare alcunché, cioè qua si fa un programma e faccio il giornalista, non devo insegnare, non sono un pedagogo, tantomeno manera, cioè non ha niente da insegnarvi, tranquilli. Beh, cioè, potete, io qualcosa ce l'ho comunque, qualcosa ce l'ho io da insegnare. Cioè? Che cosa? L'amarezza? Ecco, quella sì, per esempio. Ecco, va bene. Ognuno sentiamo... è un pedagogo. Sì. Il pedagogo, maniera il pedagogo, mi piace. Cerchiamo di informare con i nostri mille errori. Gianfranco da Roma, eccoci Gianfranco, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Eccoci, come sta? Tutto bene, grazie, per il lavoro, per il resto va benissimo. Perché? Che lavoro fa? Io ho un ristorante in Roma Centro, quindi proprio nel pieno centro di Roma, e siamo io ancora chiusi, non abbiamo utenza. Chiusi, ma perché? Come scelta, ovviamente. Come scelta, certo, perché non avremmo proprio neanche un cliente, probabilmente. Con alberghi chiusi e uffici chiusi, no? Il nostro bacino d'utenza è completamente azzerato. E che ci vuole dire? Cioè, ha chiamato per... Io vorrei dire che chi parla e dice di chiusure, di blocchi, forse sarebbe giusto anche... che anche dal punto di vista economico partecipassero al problema, magari invece di avere uno stipendio, una rendita, potendo stare pure a casa, anche a casa, magari se partecipassero con il 50% di stipendio, il 50% della rendita che comunque possono avere, una pensione e quant'altro, magari poi avrebbero una visione diversa del partecipare, dell'uscire o di avere comunque una ripresa della vita normale, tra virgolette. Sì. Questo è il suo pensiero, la ringraziamo. Ma lei, le immagini di persone che comunque escono a Roma anche per andare al ristorante ci sono. Lei pensa che nella sua dove è lei il suo ristorante sarebbe impossibile immaginare romani che vengono a cena? Assolutamente sì, diciamo così che se il ristorante di quartiere dove hanno comunque una clientela stanziale, cioè all'interno del loro quartiere, sicuramente sono partiti male, nel senso che comunque i fatturati sono bassissimi, si parla forse di un 20%, parliamo di ristorazione che è tradizionale, però riescono comunque a fare qualcosa e a provare a ripartire. Chi vive di turismo e di uffici, quindi parliamo di Roma Centro dove non c'è altro, ormai è stato desertificato tutto completamente, quindi sono solo case vacanze, non ci abita più nessuno, sono solo alberghi e sono soltanto offerta di ristorazione o di food in genere. Praticamente tutti sono chiusi, ma anche i negozi di abbigliamento, i negozi di souvenir, qualsiasi negozio è chiuso, non è solo la ristorazione. Certo. Anche chi ha provato ad aprire lunedì ha richiuso direttamente. Esatto, ma anche in centro a Milano non c'è turismo. Devo dire che anche i ristoratori che io saluto in quartiere che hanno aperto, io sono andato a vedere e i locali sono vuoti. D'altronde, ma si sapeva con la situazione, insomma, il terrore che molte persone hanno ancora, il locale è aperto, ma ci sono moltissime persone, dice io non mi fido, non ce la faccio, ho paura, ho bisogno di tempo per recuperare un po' di fiducia nel rimettermi in quella situazione. Sergio da Brescia, buongiorno Sergio. Buongiorno, chiamo appunto da Brescia. Per età non faccio parte dei frequentatori della Movida, mio figlio ne sta abbastanza lontano, però da Brescia qua, oltre che vedere le immagini di quella serata, leggo anche i commenti sui gruppi locali. Piazza Arnaldo da Brescia c'è stato un po' di assembramento, mi sembra di poter dire dalle foto. Direi di sì. Però... commenti che leggo sono tutti fortemente impostati a un forte livello di accusa, cioè ci sono accusatori che insieme vorrebbero essere anche giudici, insieme anche carcerieri se potessero, queste persone, non dico ragazzi perché c'erano anche persone un po' più grandi dei ventenni, erano stati accusati di unzione, omicidio, abiseato, non so più che cosa si potesse dire di più. E voglio dire che anche i nazisti al processo di Norimberga hanno avuto diritto alla difesa. Sì, adesso dai, vede trattati quelli che hanno fatto la movida peggio dei nazisti. No, questo assolutamente quindi, no, però capisco il paradosso. Vale la pena di spenderle, ecco. No, ma infatti che... io dico... Hanno come dire, sono andati nei locali, certo, probabilmente non hanno rispettato tutte le regole. Aspetta, però, grazie Sergio. Io vorrei sentire, però, anche con Leonardo, il nostro mitico, per me mitico, David da Roma, ristoratore. Buongiorno, Davide, giusto? David, come ti dobbiamo, com'è la pronuncia? David, grande David, ti abbiamo conosciuto. Com'è che il ristorante in via Trionfale, ridiccelo un po', Terra Matta, credo. Sì, è grande, vero, via Trionfale e Terra Matta. Che ci fai oggi? Oggi sto proprio con le mani in pasta, sto facendo delle pappardelle al pomodoro fresco e oggi propongo una panzanella con il pane raffermo da ieri. Ieri è stata una brutta giornata per me, Milan. Ieri tutti al mare sono andati. Ieri tutti al mare. Ho capito Davide, e che cavolo, cioè puoi dare un po' di respiro alle persone? No, quindi sì, domenica, io lavoravo bene la domenica, adesso invece ieri guarda, due spicchi di sole e tutti armari, poi ho fatto il pollo che patate, ho fatto le fettuccine, niente, poi alla fine mi sono mangiato io il personale. Stupendo, ti è avanzata un po' di roba che cerchi di riciclare sì, oggi. Infatti, la panzanella, no, la panzanella. No, la panzanella è un piatto importante. Comunque, è fatta un pomodoro, mozzarella. Sì, il pane è quello di ieri, ma perché deve essere quello di ieri e due acciughette salate. Insomma, no. Questo... c'è la panzanella, certo. Non c'è la mozzarella nella panzanella tradizionale. Sì, è vero, attenzione. Però qui se gli faccio solo col pomodoro, pane e pomodoro, qui mi menano, qui un pezzetto di qualcosa di sostanzioso ce lo mette, una mozzarellina, qualche oliva, è una panzanella un po' piena, insomma, due capperi, due olive, una mozzarellina, il paghino. Cioè, non è una panzanella di fatto, è un'altra cosa. Sì, sì. Un'altra cosa. Vabbè, la panzanella alla terra matta, ma guarda che tu sei proprio una roba, una panzanella buona, bravo Davide, ma che devi spiegare a questo? Sai perché? Perché Leonardo odia i formaggi, è proprio allergico. E quindi dico solo che Davide sta spacciando come panzanella una cosa che di fatto non è panzanella, è un'altra cosa. Mettila qui, panzanella a terra matta e basta, abbiamo chiuso tutto. Come stanno le pappardelle? A quanto le fai oggi le pappardelle? Ma io faccio tutti i primi piatti importanti a 10 euro, però le pappardelle a me o si prendono i lupini o col pomodoro è lo stesso prezzo, diciamo, nella pausa pranzo. Quindi alla fine più che altro io il mio lavoro neanche lo considero quello che faccio, i pappardelle a mano, i gnocchi, le fettuccine, cerco da stare più o meno sul reggere in primo piatto a 10 euro e così, insomma. Stupendo. Questi sono i piatti più importanti. Ma la gente è tornata un po', si rivede un po' quelli che lavorano. Allora, devo dire la verità, sabato e sera qualcosa si è mosso, domenica, ripeto, un pianto generale, io ho sentito anche altri amici ristoratori, niente. Cioè non c'è stata nisba per nessuno, cioè la gente è andata tutta armare col panino, non si è mossa una foglia, però ecco, durante la settimana qualcosina, io ancora lavoro a sport perché comunque la mia clientela serale è medio alta, questi hanno paura a uscire, quindi c'hanno paura a uscire, capito? No, c'hanno paura, stanno nel senso, sono staccato, capito? Però io tutto distanziato, tutto sistemato, l'ho rassicurato. Io poi faccio dei video menu ai miei clienti, io faccio un video menu gli dico perché e gli dico guarda, tutto a posto, stai tranquillo, niente, ancora non ce la fanno, stanno aspettando tempi più sereni, comunque qualcosa si muove. Piano piano, si muove. Grande David, ricordo, ristorante Terra Matta, via Trionfale, lei, nostro amico ristoratore, panzanella a Terra Matta e pappardelle al sugo oggi, grande, un grande abbraccio David, ci sentiamo, ogni tanto ti chiediamo il menù, che a questo punto mi viene fame a quest'ora e voglio sapere. Secondo me se facesse la panzanella tradizionale avrebbe più clienti, per quello che qualcuno è perplesso, dice ma dei piatti ancora, un po' discutibili, porca, non vanno. Smettila, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Sapete cosa vi dico? Che a me piacevano le città con il lockdown. belle ordinate, potevi uscire tranquillo, silenzio, poco traffico, poco inquinamento. Hanno diritto di vivere i ragazzi, non possiamo tenerli reclusi. Viva la movida! Oh, Milan, comunque è incredibile come tantissimi italiani aspettano, quasi sperano la seconda ondata. La seconda ondata. Anche Manera ha detto la seconda ondata arriva. Sì, no, io spero ovviamente di no, ma mi faceva impressione vedere che già in televisione si parla appunto della seconda ondata, creando già un po' di terrorismo preventivo, insomma. Però so che adesso è venuto a ritrovarti il mitico Francesco Vagone, che anche lui è dovuto un po' riciclarsi come lavoro. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie. Sono Francesco Vagone. Prima avevo un'agenzia Fiacci, la Facone Tour International. Poi, a causa del coronavirus, ho dovuto chiuderla e mi sono inventato un lavoro. Sono diventato virologo, diplomato su Facebook con 110 like, e oggi ho sviluppato tutte le mie teorie scientifiche per abbattere il coronavirus. Attenzione amici, oggi bei buoni consigli per difendervi e battere il coronavirus. Allora, a quanto sembra il corona soffre molto il caldo, quindi... Sì. Chi è che soffre il caldo? Non ho capito. Sì, vabbè. Il coronavirus. Infatti molti virologi... No, ma perché? Molti virologi hanno detto che forse col caldo. Vabbè, dai. Col caldo il virus potrebbe anche arretrare e non dare più fastidio. Certo, però il caldo ci fa soffrire, soprattutto quando è troppo caldo e ci fa sudare come dei tori nell'arena prima della corrida. E allora bisogna ingannare il virus fuori dalla porta. Bisogna scrivere con un pennarello la scritta. Bisogna scrivere. Attenzione, cura. Va bene, a venerdì, signori. No. Bisogna scrivere con un pennarello. Attenzione, coronavirus. Dentro l'appartamento c'è molto caldo. In modo che il coronavirus, prima di insinuarsi nelle vostre dimore, legga la scritta, sia ingannato e si mantenga lontano dall'appartamento. Quindi in questo caso, per sconfiggere il corona è sufficiente una scritta col pennarello. Inoltre, come sembra, il coronavirus sta creando più problemi in Europa e in America che in Africa. Questo è innegabile. E questo si spiega immanentemente col fatto che in Africa, essendo scurie, le persone si nascondono più facilmente, soprattutto quando la notte giunge. E per il culona è più difficile trovarle. Una buona soluzione sarebbe dipingersi completamente di nero, e in modo da essere sempre mimetici rispetto alla notte, ma bisognerebbe spendere soldi di pintura e tintura. E allora bisogna almeno non farsi trovare dal virus dormendo sopra il letto, ed eventualmente posizionando sopra il letto la vostra coppia manichino. Voi ve ne potete stare liberamente sotto al letto, il culone arriva, vede il manichino, punge lui e voi siete finalmente liberi. Per finire, un'ultima proposta per sconfiggere il virus. Come tutti voi ormai sapete, il virus ha la forma di una palla con delle piccole protuberanze, ma comunque ha la forma di una palla. E come tutte le palle, anche la palla del coronavirus può scoppiare se la si punge con uno spillo. E allora il mio consiglio è di andare in giro per strada non tanto con le mascherine, perché si può anche essere mascherati, ma il culone non si spaventa più di tanto. Invece andare in giro con degli spilloni molto evidenti, che il virus li possa vedere e si spaventi, e dire: attenzione a questi spilloni, caro culona, il virus arriva, vede che agitate gli spilloni come Zorro e vi evita, perché ha paura di scoppiare se per caso dovessi incrociare gli spilloni. Naturalmente voglio dire che una volta sconfitto il coronavirus tornerò a fare il mio lavoro, l'agente di viaggio, per invitarvi a Beronzi Superiore, la migliore cittadina mai visitata, nel senso che non è stata mai visitata. potrete trovare molte attrazioni. Per esempio Amanda, la simpatica barista senza peli sulla lingua. Se qualcuno si lamenta delle bibite, lei lo insulta. Se qualcuno le chiede un cappuccino d'orzo con latte di soia, lei gli ride in faccia. Se qualcuno chiede un panino difficile da fare, lei lo manda a fanculo. Tutto questo a Beronzi Superiore. Vi aspettiamo e quando finirà il coronavirus. Penso che abbiamo finito il tempo, è giusto? Sì, abbiamo finito il tempo. Noi la ringraziamo molto, molto, e ci dobbiamo fermare qui. Caro professor, come la devo chiamare? Professor Vagone? Professor Vagone, sì. Francesco Vagone è diplomato su Facebook. Vabbè, 110 like. Ci sentiamo domani, mi unisco al grande Danilo Di Trani e al suo Forza Milan, sempre e comunque. A domani. Uno, nessuno,